La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 18 aprile. Grazie per l'ascolto, come sempre in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo della trasmissione, versione di Oscar, radio24.it, per proporci temi o per intervenire direttamente o per criticare, chiedere correzioni e così via. Comunque scrivete, perché sapete che tante delle trasmissioni nascono direttamente da voi. La nostra convinzione è che una radio è fatta dagli ascoltatori, quindi ci serve che voi partecipiate, oltre al fatto che portate l'attenzione di tutti i vostri casi. Allora, siccome siamo all'indomani del referendum, di cui avete sentito che la metà basta, per così dire, però in ogni caso bisogna ancora continuare nell'analisi, dar voce a tutti, ho deciso di la puntata di oggi dedicarla all'ambiente, ma con una prima parte in cui vi propongo e vi proponiamo una storia che sembra paradossale, non lo è, però vale la pena di rifletterci sopra, perché è un paese che si mobilita poi per settimane con l'intensità e il calore che era testimoniato anche dalle reazioni di ieri, di stamattina, sui due fronti del referendum, soprattutto dentro il PD. Una cosa che mi colpisce è la durezza dei toni tutta interna al PD, cioè molto più che le opposizioni rispetto al PD. Era evidentemente un problema interno a quel partito rispetto al Presidente del Consiglio. Dio ci aiuti in vista di quello che avverrà man mano che ci avviciniamo, quando si terrà poi il referendum autunnale sulla riforma della Costituzione, perché immagino che sarà il Premier contro tutti. Ma detto questo, una prima parte della trasmissione è dedicata invece a una vicenda che testimonia le contraddizioni e i paradossi di un paese che si descrive e si propone con nuove scelte come dedito alla tutela del suo patrimonio ambientale, con un mix energetico il più possibile fatto di rinnovabili, non le fonti fossili, eccetera, eccetera, eccetera, e poi accadono cose come quella che vi proponiamo nella prima parte della trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione, invece, più breve, ve lo dico da subito, per una questione di riequilibrio delle voci, perché se guardate in televisione o per radio fino a questo momento, da ieri sera, sono soprattutto i fautori dei quesiti quelli che parlano, appartenenti ieri sera. Sentiremo invece come la pensa chi si è battuto per ottenere il risultato che è avvenuto nel referendum. Ma cominciamo con la prima parte, e la prima parte è dedicata a una storia da cui esistenza ho appreso ieri sul Corriere della Sera per la firma di Sergio Rizzo, dell'amico Sergio Rizzo, e che mi ha molto colpito, come ha colpito lui che ne ha scritto sul Corriere, e vale la pena di sentire dalla protagonista. È una vicenda attualmente diventata una vicenda giudiziaria per via di una decisione politica assunta dalla giunta, dal consiglio comunale di questo comune di cui parliamo oggi e dal sindaco, ed è relativa a una decisione che il sindaco, la giunta, il consiglio comunale ha assunto in relazione a un'area. A un'area che doveva essere edificabile, che però in precedenza era agricola, e che è tornata a essere agricola per la tutela dell'ambiente, appunto, del paesaggio. Anzi, Sergio Rizzo diceva giustamente ieri, esiste un articolo della Costituzione, l'articolo 9, dove c'è scritto che la Repubblica tutela il paesaggio. Però la vicenda è entrata nel giudiziario. Allora, ha accettato di essere con noi per spiegarci di che si tratta e per farci riflettere meglio dalla sua diretta voce sui paradossi di questa vicenda, ed è una vicenda che non è isolata in Italia, per questo vale la pena rifletterci. Il sindaco, appunto, di Lauriano, che è un paese nella provincia di Torino, ieri ho letto sul Corriere della Sera che ha 1496 anime, e il sindaco è Matilde Casa. Grazie e buon pomeriggio di essere con noi, signor sindaco. Grazie, buongiorno, grazie a lei. Allora, ci spiega la vicenda, perché nella sintesi di Sergio Rizzo ieri non si capiva bene. Allora, quest'area di cui si parla era un'area agricola poi trasformata a scopo edilizio? Allora sì, questa è un'area che è stata trasformata da amministrazioni precedenti la mia, quindi negli anni 80-90 con un piano regolatore divenne edificabile. Sì. Poi negli anni i proprietari di questa area, che è poco più di 2 ettari, una collina verde, perché Lauriano è per metà zona collinare, questi proprietari, dicevo, presentarono vari progetti che però furono tutti bocciati per varie motivazioni di carattere tecnico, intendo un terzo di questo di questo terreno è interessato, è in zona 3A, che dal punto di vista geologico significa zona di frana. Di frana, sì. Ha delle grosse difficoltà dal punto di vista degli accessi, quindi di difficile accesso, e quindi aver reso molto complicato l'idea di edificare come si voleva fare, come volevano fare 40 villette. Quando io sono diventata sindaco al primo mandato nel 2008, avevamo proprio come idea fondamentale della nostra lista di salvaguardare il territorio, quindi che vuol dire che è un'idea che noi ci portiamo da molto tempo, sì. Soprattutto salvaguardandolo senza creare problemi allo sviluppo, perché questa idea che lo sviluppo debba per forza passare attraverso le aree verdi è qualcosa che ci trovava contrari. Quindi abbiamo fatto questo piano regolatore, presentato questo piano regolatore, in cui per primi in Italia, credo, non abbiamo traslato aree edificabili, ma le abbiamo diminuite. E questo, ribadisco, per una chiara scelta politica, perché lo avevate detto agli elettori esplicitamente, certo, cioè. Sì, esplicitamente, anche perché, ribadisco, Lauriano è un paese di 1500 abitanti, sono circa 750 abitazioni, e un terzo di queste sono o disabitate o da ristrutturare, cose. Quindi non c'è fame di immobili, insomma. No, non c'è fame di immobili, anche perché, come spiegavo anche ad altri, proprio ai concittadini, a persone che non conoscono la realtà locale, soprattutto della provincia torinese, c'è una forma di svuotamento dalla provincia, certo, torinese, e questo è un altro problema, perché dopo un esodo verso l'esterno adesso si ritorna a un'urbanizzazione dovuta non tanto al lavoro come negli anni 60, ma dovuta al fatto che sempre più mancano servizi, quindi il fatto di vivere fuori è per questo motivo. Quindi parte del paese è, come dicevo, da ristrutturare, e non solo, noi ancora prima di adottare questa variante che è stata approvata nel 2013, prima ancora abbiamo fatto un altro gesto che è altrettanto in questa direzione, altrettanto importante, che però ha avuto meno clamore a questo punto di vista, ma e credo di essere un unicum in Italia, e lo dico senza piaggeria, da un certo punto di vista ne sto pagando le conseguenze. Noi quando arrivavamo proprio vicino a quella zona era stato, il Comune di Lauriano aveva ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento di 400.000 euro per costruire la nuova scuola elementare. Io mi sono consultata con i consiglieri, con gli assessori, e abbiamo deciso, come dico sempre dopo due notti insonni, di rinunciare a questo finanziamento, di comprare con fondi nostri una struttura abbandonata nel centro del paese di 1500 metri quadri e di farci lì la nuova scuola. E quindi in questo senso noi siamo andati non solo quest'estate, poi l'ultimo atto è stato quello di... Quindi un gesto anche di responsabilità verso la spesa pubblica, e anche di scommessa di continuare a poterlo fare pur spendendo queste risorse senza pregiudicare il bilancio. Io credo anche che tutto sommato l'amministrazione debba dare dei segnali, cioè non possiamo chiedere al privato di ristrutturare, di salvaguardare il territorio, e poi noi andiamo a fare nuove queste costruzioni. Benissimo. Tra l'altro, su cui possiamo anche aprire un dibattito riguardo alla qualità di queste nuove costruzioni. Ma a quel punto, quando avete rifatto la variante ed è tornato terreno agricolo, i privati che avevano i progetti, ma nel frattempo i privati avevano proceduto a pagare e a realizzare, a pagare gli oneri di urbanizzazione e a realizzare opere? No. No, loro non sono mai arrivati ad avere un progetto approvato perché, come le dicevo, c'erano varie problematiche di vario tipo. Per cui quando noi, in sede di scelte nel piano regolatore, perché il piano regolatore, ribadisco, è una scelta politica, certo, cioè è un atto, perché, come dico, un sindaco, cioè, che ci sto a fare altrimenti, cioè l'ordinaria amministrazione, ci sono delle scelte, delle direzioni che ovviamente all'interno di regole, legalità, è ovvio, ma deve fare delle scelte. La scelta politica di questa amministrazione era diminuiamo le superfici edificabili, quindi ci siamo confrontati con l'ufficio tecnico e abbiamo detto ovviamente non andiamo a togliere zone edificabili dove c'è una zona già compromessa, ci sono i servizi, magari, cioè questa zona invece presentava tutta una serie di criticità e noi l'avevamo già in minoranza fatto notare. E quindi abbiamo detto questa è la zona. E allora come si arriva di fronte a questa delibera così motivata eccetera eccetera poi a un procedimento e a un pubblico ministero che chiede il vostro rinvio a giudizio? Scusi, come giustamente diceva lei, è paradossale che normalmente le vie normali sono quelle delle osservazioni del piano regolatore che sono state fatte e a cui sono state date risposte, poi c'è un'approvazione della regione che è stata piena e completa, e poi c'è la possibilità di ricorso al TAR. Non è stato fatto nulla di questo. Uno dei proprietari di una porzione di questi 2 ettari che sono tornati area verde ha fatto una denuncia, ha denunciato per abuso d'ufficio, quindi ha denunciato me, il tecnico comunale e il segretario comunale per aver utilizzato, appunto, si arriva fino a citare anche l'articolo della Costituzione, per aver utilizzato il proprio potere per in qualche modo danneggiare i loro interessi. Che da un certo punto di vista, cioè, è vero, nel senso che effettivamente questo piano regolatore lo ha danneggiato perché gli ha tolto infatti devo dire la verità, nella mia sensibilità, siccome io tutelo sempre i diritti dei privati al basso in confronto dello Stato, questa vicenda mi colpisce ancora di più, perché in realtà il privato, che ripeto, la cosa fondamentale, cari ascoltatori, è che non è mai stato in grado di avere un piano approvato, no? Perché sarebbe completamente diverso se avesse avuto un piano approvato, perché a quel punto avrebbe cominciato i lavori, eccetera, eccetera. Non l'ha mai avuto, non adisce le vie del ricorso amministrativo e va direttamente invece per un'altra strada. Allora, io che difendo sempre il privato, il diritto di proprietà, eccetera, eccetera, e per questo dico, questa vicenda è esemplificativa invece, perché qui c'è un privato che va da sceglie la via giudiziaria invece che quella dell'impugnativa amministrativa, non essendo stato in grado di vedersi un progetto approvato. Allora, e però il pubblico ministero com'è che ha chiesto il ricorso giudiziario? Cioè ha identificato evidentemente degli elementi per i quali anche lui dice che avete fatto abuso di potere. Allora, secondo me, cioè, quello che è successo, appunto, io sono stata interrogata dalla PM, la quale, fra le altre cose, mi fece proprio questa domanda, che io dico sempre esemplificativa, mi disse: ma si rende conto che lei, agendo in questo modo, ha creato un danno a questo signore, impedendogli di costruire delle belle villette? Ma il problema è duplice, nel senso che da una parte, cioè, come le dicevo, ci sono dei vincoli tecnici che non avrebbero comunque consentito se non con ulteriori piani regolatori, ma soprattutto poi c'è una precisa volontà politica. Voglio dire, io creo del danno anche ad uno a cui non metto un terreno edificabile. Le scelte politiche hanno evidentemente delle ricadute. È veramente una storia emblematica. Danneggiare alcuni ed altri. Dopodiché io sono sicuro, lo dico per il nostro ascoltatore, sentito il privato ci direbbe l'esatto opposto, ovviamente mi direbbe: come, Giannino, tu sei sempre per noi e adesso sei contro di noi. Qui però si tratta di capirla bene la storia, perché altrimenti come la facciamo la messa a tutela poi dell'ambiente italiano? Diciamo che c'è un fatto che nell'ultima udienza è venuto fuori, del fatto che noi abbiamo prodotto un documento, e questo è agli atti, del segretario comunale, che nuovo, che non è quello imputato, che certifica che dal 2003, quindi al primo momento in cui è stato richiesto il permesso a costruire, non sono mai stati rilasciati permessi a costruire, mentre loro dicono di averlo ma non l'hanno ancora prodotto, quindi comunque se ce l'hanno sarebbe il momento di tirarlo fuori. Ma scusi, ma è possibile che loro ce l'abbiano senza che al comune risulti? No. Ah, eccomi, ma voglio sperare, siamo in una condizione, a Roma può accadere, ma non voglio sperare che in un comune di 1500 abitanti del Piemonte non siamo in questa condizione. Non solo, cioè la cosa che ho trovato strana è che questo non è stato richiesto loro in fase di interrogatorio, di preliminare ed è col PM, questa è la cosa che un po' mi stupisce un po' tutta la vicenda, è una cosa che davvero non riesco a spiegarmi. E quindi in questo senso io mi sono sentita, appunto io sono stata rinviata a giudizio l'estate scorsa, e davvero mi sono sentita persa da questo punto di vista, perché veramente l'idea di riuscire a fare una politica che sia di principio, per un certo momento ho anche pensato: allora veramente non paga. No, signor sindaco, guardi, io che sono a spada tratta per la difesa dei privati, però io sono per la difesa del diritto e del rispetto della legge. Ma questo è il problema, sa. Qui non si tratta mica di privato contro pubblico, si tratta di vedere le procedure. Anzi, se posso dire, no, più che le procedure, forse bisogna capire esattamente di cosa si sta parlando, forse anche quando si va in giudizio. Io sul discorso del privato, ecco, anche questa è una cosa che ci tengo a dire, perché tutta questa cosa è venuta fuori anche dal fatto che adesso si sta parlando moltissimo, se c'è una presentazione di una legge nazionale sul consumo di suolo, e io ho voluto in un paio di seminari, e da lì è nato un po' tutto questo battage pubblicitario, che questa pubblicitario nel senso di che ho avuto una pubblica eco, proprio in uno di questi seminari su questa legge in studio. Quello che voglio dire, ed è venuto fuori anche da altri che sono architetti e quindi persone che insomma hanno anche un interesse rispetto all'utilizzo del suolo, e che io condivido profondamente e dico da anni, diciamo, con la nostra piccola amministrazione, è che lo sviluppo e la salvaguardia del territorio sono qualcosa che devono andare insieme. Io no, ma, certo, ma sono completamente d'accordo. Guardi, io faccio notare solo chi ascolta: abbiamo un problema enorme di rimessa in efficienza dell'infinito enorme patrimonio immobiliare italiano, la cui età media, la cui dotazione di strumenti ecoefficienti, la cui impronta dal punto di vista energetico, eccetera, eccetera, purtroppo è direttamente proporzionale alla sua fatiscenza, mentre abbiamo avuto un uso smodato del territorio. Io che sono, ripeto, per la libera proprietà, non posso fare a meno di considerare che questo è uno dei problemi fondamentali dell'Italia. Ogni volta che in autunno se ne scende un pezzo di Liguria deriva da questo, se non abbiamo ancora capito, cari miei, e crediamo che nelle colline continuiamo a cementare, siamo matti. Allora, io intanto la ringrazio, caro sindaco Laureano, vedremo noi, come in tutta l'informazione, lo sviluppo della sua vicenda giudiziaria, che però è secondo me davvero un caso, perché se si tratta di passare dalle parole ai fatti, i fatti sono naturalmente nel rispetto della legge, ma sono fatti di decisioni di questo tipo qua. E allora vediamo come andrà avanti il procedimento. Intanto grazie di essere intervenuto e auguri. Noi adesso andiamo alle informazioni stradali e torniamo tra poco ancora con il referendum. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 18 aprile. Avete sentito questa vicenda un po' paradossalmente esemplificativa, però, di che cosa significhi in Italia davvero tentare, avendolo dichiarato un indirizzo politico che è quello di tutela dell'ambiente su terreni su cui sì, erano venuti i cambi di finalità ed erano diventati da agricola e edilizi, costruibili, però insomma c'erano problemi, i progetti non sono mai approvati, arriva un sindaco e dice cambiamo, allora torniamo indietro, bam, e si trova a giudizio penale senza ricorsi amministrativi. Lo sfondo però, perché abbiamo chiesto al sindaco di Laureano di illustrarci questa vicenda, è naturalmente l'enorme polverone con grandissimi echi politici che ha avuto la vicenda del referendum di ieri, il cui esito non vi devo ricordare, ha vinto chi non è andato a votare e quindi ha impedito che il referendum fosse valido, e lo ha fatto perché nel referendum è così, ricordiamolo ancora una volta, non perché ha contravvenuto a un dovere civico, ma perché ha considerato evidentemente il quesito o marginale o secondario o troppo strumentalizzato. Siccome a parlare continuano in maggioranza soprattutto chi si è battuto per il referendum, io faccio i miei complimenti al Presidente della Puglia che si sta battendo come un leone e in televisione non solo da tutto ieri ma anche da tutto oggi, e questo va a suo merito, era il frontman della campagna. Abbiamo deciso invece di sentire chi non avendo incarichi politici, non avendo una macchina dietro eccetera eccetera, avete visto spesso con mia grande soddisfazione, perché sono suo amico, lo dichiaro, questo conflitto di interesse in televisione, incarnare come un piccolo ma convinto sostenitore le ragioni del non voto al referendum che alla fine è prevalso, cioè Pier Camillo Falasca. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Pier Camillo. Buon pomeriggio a te e a tutti. Allora, io ti chiedo di incarnare la parte di chi si è sentito meno in queste ore, ma perché? Perché non siete soddisfatti? Ah, siamo assolutamente soddisfatti. Ora, innanzitutto c'è da dire una cosa: noi non volevamo vincere, non c'era nulla da vincere, c'era piuttosto da non far perdere l'Italia. La nostra è stata una battaglia animata da quello spirito lì, quindi nessun tono trionfalistico, non serviva averne, rispetto per tutti, per chi ha votato sì, per chi ha votato no e per chi ha scelto consapevolmente e democraticamente di non votare. Ora, il referendum a nostro parere aveva già fatto i suoi danni ben prima del voto, quando il Parlamento, siamo nella legge di stabilità 2016, aveva recepito quasi tutti i quesiti che erano stati proposti. Cioè, in realtà i referendari hanno vinto, questo è il punto vero, nella sostanza, perché quei quesiti erano molto più importanti e con un impatto molto maggiore di quello su cui si è votato. Se uno guarda la vicenda, diciamo, con un fotogramma a novembre 2015, diciamo, i referendari hanno vinto, nel senso che hanno ridotto la capacità dell'Italia di essere terra di attrazione di investimenti, di attività di ricerca e sfruttamento di giacimenti di gas naturale e di petrolio, prevalentemente gas, ricordiamo. Se guardiamo invece ovviamente la vicenda con gli occhi di oggi, i referendari hanno perso, abbiamo cioè evitato che i referendari compissero un ulteriore danno che riguardava, questo sì, delle attività già in essere, delle attività già pienamente operative, peraltro da decenni, quindi lì sì ci sarebbe stato un danno sostanziale dei diritti di proprietà, di attività economiche, di lavoro e di creazione, insomma, di un clima di ulteriore incertezza normativa per il nostro paese. Questo poi in sostanza le ragioni che mi hanno spinto, tra virgolette, idealmente, uso le virgolette perché Poi c'è anche la bellezza di una battaglia politica, non lo nego, certo. Diciamo, di scontrarsi su queste questioni e soprattutto un po' di confrontarsi con questa Italia del no a tutto, con questi movimenti che oggi sono stati no trip, ma ieri erano allo stesso modo no biogas, no biometano, no paleoliche, insomma l'Italia che conosciamo nella sua veste deteriore. Questi danni di questi anni, diciamo, l'incertezza normativa intorno al settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi ha già portato ad un deflusso di investimenti dal nostro paese dell'ordine di miliardi di euro. Insomma, c'era da mettere un punto. Noi speriamo che questo punto sia stato messo, che l'astensione, non tutta consapevole, ovviamente, non ci inventiamo. Sì, sì, non annettetevi tutto, certo. No, no, a differenza di Emiliano noi non rivendichiamo tutto, perché Emiliano ora sta già lì a difendere, a investire i suoi 13 milioni di voti, tra virgolette, in una battaglia politica futura. Noi pensiamo che l'astensione consapevole o quella, diciamo, dei disinteressati abbia permesso di mettere un punto fermo e ora, da oggi in poi, l'Italia, per favore, diciamo noi, inizia a guardare contemporaneamente ad un futuro che sia sì di energie rinnovabili, ma fatte bene, non come quelle che abbiamo visto fino adesso, ma anche di valorizzazione di questo enorme patrimonio di gas naturale che abbiamo oltre le 12 miglia, per la verità, la gran parte. Si parla di stime tra riserve certe, probabili, possibili e potenziali di 700 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Per semplificare, se andassimo avanti con lo stato attuale di consumo in Italia, avremmo un'autonomia di 7 anni. Ovviamente non consumeremo soltanto il nostro, quindi vorrebbe dire avere una dotazione capace di soddisfare un pezzo alla nostra domanda di gas per molti anni, oltre agli effetti positivi sull'occupazione, sulla crescita economica. Sulla bilancia dei pagamenti. Abbiamo passato una campagna elettorale a cercare di, come dire, di far capire che non era in gioco il mare contro le trivelle, le friselle, le cozze. Certo è che abbiamo avuto paura di un punto, che un'eventuale vittoria del sì avrebbe avuto a valanga degli effetti negativi anche oltre le 12 miglia, come è successo con tanti altri referendum. No, come sul nucleare, era una normetta così e poi è stata una cosa decisa invece integrale. È ovvio che era l'inizio di una battaglia a quel punto. Ti faccio un'ultima domanda secca. Nella prospettiva che il quorum non ci sia più nei referendum, magari si alzi l'asta per le firme, quando sono le firme e i proponenti, in questo caso erano i consigli regionali, ma poi si levi il quorum, sarà un incentivo a complicare l'istanza, ma ad andare a giudizi avrebbero stravinto ovviamente gli abolizionisti, come si vede. Tu che pensi? Allora, col senno del poi io non ci avevo pensato prima. Innanzitutto ho visto che è rimasta la possibilità per 5 consigli regionali di presentare il referendum. Ecco, col senno del poi forse sarebbe stato meglio ripensarci a questa prerogativa, visto ora il nuovo Senato, la nuova forma che avrà in caso di, ovviamente, di vittoria. Le regioni dicono come si riaccentrano le decisioni invece, perché questo avviene col nuovo testo sulla strategia economica nazionale, meglio così. L'essenziale è che sappiamo che secondo me questo è un precedente, che diventerà forse un nuovo modo di regolare i conti tra regioni e leader politici regionali e governo e leader nazionale. Questo è quello che penso io. Rispetto invece ai referendum, diciamo, popolari, raccolti cioè con le firme, io sono, dal mio punto di vista, favorevole ad un aumento a 800.000 del numero delle di firme minimo. Consideriamo che erano 500.000 in un'Italia, ma sul quorum... 46. Ma sul quorum io credo che siano finite ormai le battaglie sì versus astensione. Saranno tutti referendum sì contro no. Ultimo punto, quello politico, ho però la forte preoccupazione che oggi il movimento referendario, la dinamica referendaria, rischi di essere intrappolata da questa ondata demagogica e populista. Lo so, ma del resto non questo però i referendum liberali non spetta questo certo degli anni 90. Però questo non spetta a noi sindacare le diverse tendenze. Vedremo in ogni caso. Grazie per Camillo Falasca, io ti ringrazio per l'impegno personale anche che hai profuso, perché tu non c'hai dietro una macchina di partito che ti paga. Ma detto tutto questo, cari ascoltatori, buon dopo referendum, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Milano domani alle 8:15. Attenti a noi due.